Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Era giovedì nel Duomo di Trento, gremito, una folla anche in piazza per centinaia e centinaia di persone che hanno voluto seguire i funerali di Antonio Megalizzi, il collega 28enne ucciso da un terrorista a Strasburgo. A ricordarlo in chiesa, un racconto di fatto di quest'uomo, di questo giovane uomo, della compagna, di una compagna di scuola. Sentiamola. Amava la musica, come avrete capito. Ed era dai tempi degli stage a scuola che puntava alle radio e ce l'aveva fatta. Eravamo orgogliosi del suo cammino, ma d'altronde qualcuno aveva dubbi che ce la potesse fare. Poi arrivò questo progetto con la radio del Parlamento Europeo e ne andava fiero, era perfetto. Amava scrivere e non era solo un modo per raccontare i fatti o un modo per raccontare il mondo, ma era una necessità. Una volta disse che scrivere di ciò che gli succedeva lo aiutava ad autoanalizzarsi, per capire le sue emozioni ed eventualmente i suoi errori. C'è poi una cosa che forse in pochi sanno, un concetto nel quale credeva particolarmente, la storia dell'asterisco. Diceva che l'asterisco accompagna le persone speciali ed è il marchio di fabbrica della bellezza emotiva, della sensibilità superiore e della meraviglia dei primi. Si può senza dubbio dire che se c'è una persona dotata di asterisco, quella persona era lui. Non lo so se davvero tutte le cose belle hanno un punto prima o poi. So che questo non doveva averlo. Cerchiamo di essere forti perché bisogna esserlo per lui e per la sua famiglia, ma la verità è che non ci si riesce. Questo mondo non può portarci via un amico in quel modo. C'è tanta rabbia e vorrei che il mondo ci aiutasse a non far succedere queste cose. Vi prego, perché piangere Antonio è devastante. Una frase che tu mi dicevi, Mega, mi fa sorridere ora. Quando mi dissi che non volevi fare il VIP, ma il giornalista. Beh, amico, ora hai fatto un casino. Chi ti conosce? Ti conosce tutto il mondo e tutto il mondo parla di te. Ma come ho già detto, dovevi essere tu a parlare del mondo. Ben ritrovati, un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Roberta Frisani in regia, dalla redazione di Radio 24. Bentornati dunque a questo appuntamento con l'Europa. Adesso parliamo della manovra, ne abbiamo parlato per settimane, credo che continueremo a farlo, ma intanto è stato raggiunto un accordo. La Commissione ha risposto questa mattina trasmettendo pochi minuti prima delle 12 e della ragione della richiesta di invio di questo incontro, una comunicazione nella quale, prendendo atto delle misure di bilancio che il Governo intende sottoporre al Parlamento, assicura che l'adozione di queste misure permette alla Commissione stessa di non raccomandare l'avvio di una procedura per disavanzo eccessivo. Questo dunque accade a metà settimana, la comunicazione, adesso sentiamo dal punto di vista delle istituzioni europee nel servizio del corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. La Commissione europea ha dato il via libera sofferto alla finanziaria del 2019 dopo un lungo negoziato con il governo Conte. Il benestare è condizionato, prudente, ma almeno evita una procedura per debito eccessivo che mai è stata aperta finora nei confronti di un paese nei 20 anni di moneta unica. Sia il commissario agli affari monetari, Pierre Moscovici, che il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, hanno avvertito che l'esecutivo comunitario seguirà da vicino l'iter di approvazione del bilancio in Parlamento. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, potremmo in gennaio riaprire il dossier, ha detto Valdis Dombrovskis. Il governo Conte è stato costretto a rivedere drasticamente i suoi obiettivi di bilancio. Il deficit per il 2019 calerà dal 2,4 al 2,04%, mentre il deficit strutturale, ossia al netto del ciclo economico, rimarrà stabile rispetto al 2018, mentre in precedenza l'obiettivo del governo era di aumentarlo dello 0,8% del prodotto interno lordo. Nel contempo, il Ministero dell'Economia è stato costretto a rivedere al ribasso le proprie stime di crescita. In buona sostanza, l'accordo sulla finanziaria del 2019 è un compromesso, ma il governo italiano ha certamente tradito le proprie posizioni di partenza più della Commissione europea. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Un punto questo che il vice premier Luigi Di Maio non solo non condivide, ma nega in maniera ferma. Sentiamolo. Io non sto pretendendo di dirvi, non pretendo di dirvi che abbiamo risolto tutti i problemi del paese. Però non ci sto a questo racconto per cui adesso la nuova legge di bilancio è una legge di bilancio scritta a Bruxelles e imposta a Bruxelles. A Bruxelles se l'hanno scritta loro, evidentemente si sono dovuti ricredere su una serie di cose, perché qualora sia stata scritta a Bruxelles è una legge che c'ha dentro quota 100, reddito di cittadinanza. In ogni caso, per molti quello che è accaduto in questi giorni è un buon segno. Così ha commentato in maniera asciutta ma chiara anche il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz. Abbiamo citato naturalmente, cosa che facciamo in maniera abbastanza regolare, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovski. Dunque sentiamo il passaggio appunto in cui Moscovici, lo ricordiamo, dal 2014 commissario europeo per gli affari economici e monetari della Commissione Juncker, alla, di fatto alla chiusura dell'accordo con Roma. E elle se confirme aujourd'hui. C'est que nos règles fonctionnent mieux quand elles sont appliquées dans un esprit constructif. Ecco, dice, le nostre regole funzionano meglio quando sono applicate in una maniera costruttiva. Plutôt qu'elles sanctionnent quand elles sont dissuasives et non pas punitive. Quando sono regole dissuasive e non punitive. E non pas rigide et mécanique. E nello stesso tempo, dice Moscovici, che poi è quello che un po' ha sempre sostenuto durante la trattativa, quando sono applicate in maniera elastica e non rigida. Valdis Dombrovski, vicepresidente lettone della Commissione europea, già primo ministro a Riga dal 2009 al 2014, uno degli esponenti della cosiddetta linea della fermezza del Nord. Let's be clear, the solution is not ideal, but it avoids opening the excessive deficit procedure at this stage. La soluzione non è ideale dunque, ma evita l'apertura di una procedura per deficit eccessivo. Budget is based on a plausible economic scenario. Credible and sustainable budgetary policies indeed cannot be planned on over-optimistic forecasts. E adesso direi che abbiamo coperto abbastanza il tema, c'è spazio per affrontarli altri. Uno dei temi della settimana è stato quello dei numeri, i numeri dei giovani maschi che restano ancora più a lungo con mamma e papà. Secondo gli ultimi dati Eurostat, tra i 18 e i 34 anni, quelli che dichiarano di vivere a casa dei genitori sono il 72,7% del totale. Enza Loddo ha intervistato su questo punto lo psichiatra Alessandro Meluzzi. Ma penso che la disoccupazione e la mancanza di una vera autonomia economica giochi il suo ruolo. C'è anche un altro aspetto che ha forse a che vedere, anche se in maniera un po' stereotipata, con l'antico mammismo nazionale, che forse mette in collusione le aspettative di mamme, talvolta ancora anche abbastanza giovani, con la sindrome del nido vuoto, con le fragilità e la difficoltà dei giovani maschi ad assumere ruoli adulti, sia in termini di autonomia economica che anche della capacità di assumere ruoli sentimentali, familiari, maritali, paterni adeguati. Quindi in questo ritardo che qualcuno avrebbe definito bamboccionismo, che forse è una specie di eterna adolescenza che porta l'adolescenza fino alle soglie della terza età, ci sta un problema sicuramente. Quindi cosa si dovrebbe fare? Come si può frenare questa deriva? Pensare di ovviarlo è come pensare di ovviare la crisi delle nascite, in fondo appartengono entrambi allo stesso fenomeno. È chiaro che un figlio solo, o al massimo un figlio e mezzo, o due per coppia, facilita dei legami di attaccamento piuttosto rigidi, piuttosto vischiosi, in particolare con la figura genitoriale dell'altro sesso, quindi giovani maschi con le madri. E ancora, prima degli aggiornamenti per chi è in viaggio, parliamo di un programma di finanziamento per le start-up che premia quelle più innovative. Una di queste è italiana, ha un brevetto per delle nuove traverse ferroviarie che a breve sarà commercializzato in oltre 80 paesi. L'Europa e le start-up, innovazione, nuova occupazione e nuove aziende. Quanto pesa l'Europa nell'avvio di una nuova azienda? Ce lo dice Giovanni Delisi, fondatore della start-up numero uno in Italia, Green Rail, che con la gomma degli pneumatici produce binari ecosostenibili ed intelligenti. Greenrail è una startup nata nel 2012 e che ha sviluppato una traversa ferroviaria ecosostenibile. Le traverse sono quei componenti che compongono i binari, storicamente erano in legno, oggi lo standard è rappresentato dalle traverse in calcestruzzo. Greenrail è realizzata con una struttura interna in calcestruzzo rivestita da una miscela ottenuta da plastica dal riciclo urbano e gomma ottenuta dal riciclo di pneumatici fuori uso. Qual è il grado di innovazione per la quale l'Europa ha deciso di scommettere su di voi? Greenrail ha dei vantaggi sia tecnici che economici, nonché ambientali, perché per ogni chilometro di linea ferroviaria costruita con traverse Greenrail si riesce a riciclare fino a 35 tonnellate di plastica ottenuta dal rifiuto urbano e gomma ottenuta dal riciclo di pneumatici fuori uso. Inoltre abbiamo dei vantaggi anche sotto il profilo acustico, perché riduciamo le vibrazioni e la rumorosità fino al 40% del traffico ferroviario, e questo ci pone oggi a livello internazionale come un possibile futuro prodotto in grado di scalzare quello che oggi rappresenta lo standard, ovvero le traverse in calcestruzzo, e quindi divenire, diciamo, il prodotto standard del futuro. Questo anche perché quello che è il megatrend mondiale oggi è la sostenibilità ambientale. Quindi per la vostra startup quale peso ha avuto il finanziamento dell'Unione Europea? Il contributo dell'Europa è stato rilevante per la crescita di Greenrail e lo sviluppo del prodotto. Nel 2016 abbiamo vinto questo bando che ci ha finanziato sino a 2 milioni e mezzo di euro a fondo perduto. Il totale del progetto di ricerca era intorno ai 3 milioni e mezzo e ci ha consentito di passare dalla fase di ricerca a portare il prodotto in opera. Infatti oggi noi siamo installati già su una prima linea qui in Italia con Ferrovie Emilia Romagna, con una tratta pilota, e abbiamo già certificato e testato il prodotto sia secondo normative europee che secondo normative statunitensi. La vostra startup ha un'altra caratteristica fondamentale, che è quella di avere un team molto giovane. È un team giovane, siamo tutti under 40, siamo in 14, in questo momento stiamo continuando a crescere, a partire dall'anno prossimo avremo esigenze di fare crescere il personale. Abbiamo comunque nel team di ricerca ulteriori 30 persone tra Politecnico di Milano e aziende esterne che lavorano sui nostri progetti di ricerca. Siamo partiti, eravamo in due, oggi siamo cresciuti proprio grazie a quello che è stato il contributo dell'Unione Europea. Grazie anche a Silvia Bernardi, torniamo tra un istante, adesso aggiornamenti per chi è in viaggio. Europa, Europa. Ben ritrovati da Gigi Donelli per questa seconda parte di Europa, Europa, che ci porta a Londra. Tra un istante con noi Leonardo Maisano, che da parecchi anni ormai segue appunto la politica, gli sviluppi, non solo la Brexit, ma tanta Brexit negli ultimi tempi. Prima però sentiamo insieme questo passaggio audio. As President Juncker said, it is the best deal possible and the only deal possible. And any proposal for the future relationship, whether Norway, Canada or any other variety. Theresa May che difende l'accordo raggiunto e contestatissimo in patria per una Brexit ordinata. Di fatto credo, adesso lo verifichiamo, quello che poi è l'ultimo discorso in Parlamento prima della chiusura natalizia, poi se ne riparla all'inizio di gennaio. Leonardo Maisano, allora intanto buongiorno, benvenuto con noi. È così la situazione attuale? Buongiorno a voi. Sì, Theresa May ha fatto questo discorso in cui ha rilanciato la tesi che l'ha guidata fino adesso, cioè quella che muove su due binari. Da un lato lei vuole tenere fede al voto del referendum del giugno 2016 e quindi uscita dall'Unione Europea, dall'altro vuole minimizzare le conseguenze economiche che comunque ci saranno, perché comunque la Brexit implica anche per i Brexiter, lo riconoscono i Brexiter stessi, comunque un danno economico per loro solo sul breve periodo, ma in generale è su medio-lungo periodo, secondo le considerazioni di tutti gli economisti. Quindi se questa è la linea, Theresa May cosa dice? Io devo tenere fede alla volontà popolare, però devo cercare per il bene del paese di minimizzare l'impatto economico. Tra l'altro, quello che esce è il suo accordo, del quale parleremo poi più avanti. Ecco, tra l'altro mi piace sentire ancora un momento di questo discorso di Theresa May, perché effettivamente c'è quasi un, come dire, c'è un piccolo promemoria all'aula. Sentiamolo subito. We asked the British people to take this decision. 472 current members of this House voted for the referendum in June 2015. With just 32 voting against. Ecco, per la serie qualche sassolino da togliersi, Theresa May ricorda che nel giugno del 2015 472 membri dell'attuale Parlamento hanno votato a favore e solo 32 erano contrari. Leonardo, un po' come dire, non sono arrivata io per una mia idea a questo punto, perché mi sembra che sia un po' questa, no? Uno degli aspetti, cioè siamo arrivati qui perché è stato fatto un referendum, ma molti parlamentari britannici sembrano quasi esserselo dimenticato. Assolutamente vero, ma Theresa May in tutta questa vicenda si è comportata in modo onorevolissimo, se non a causa di un errore di fondo, cioè lei si è data delle linee rosse invalicabili sulla linea negoziale che hanno reso tutto praticamente impossibile da negoziare in un modo come dire, soddisfacente per il Parlamento, perché come vedremo più avanti il Parlamento, come si sa, è contrario anche se non ha ancora votato, ma tutti le ricerche, di, come dire, le statistiche, i sondaggi, le ricerche appunto sulla volontà dei parlamentari confermano che quando sarà portato al voto non passerà. Quindi è stato il vero grave errore di Theresa May, è stato quello di abbracciare una Brexit radicale, fuori dalla Customs Union, fuori dal mercato interno, ponendo tutta una serie di obiettivi che poi andavano a sbattere con la realtà, come dire, da un lato la realtà dell'assetto costituzionale del Regno Unito per il rapporto con l'Irlanda del Nord, dall'altra per quelle che sono, come dire, gli imperativi economici. Da questa camicia di forza che lei ha messo a se stessa e al Paese è uscito un compromesso che, come abbiamo visto, molto probabilmente, anzi quasi certamente, non passerà. E quindi la Gran Bretagna nei prossimi giorni, entro la metà di gennaio, con grandissima probabilità, si ritroverà da capo, a punto zero della Brexit. Tutto questo quando il 29 marzo, ecco, cosa significa 29 marzo oggi per Londra, per il Regno Unito? In realtà significa la data di un salto nel vuoto, cioè il giorno in cui, se non si trova un accordo, se non si prendono delle misure che per ora nessuno ha voluto prendere, ci sarà, come dire, il salto nel vuoto, cioè la Gran Bretagna di colpo sarà fuori per esempio dalla direttiva Open Sky, quella sull'aviazione civile, probabilmente fuori dal roaming delle telecomunicazioni, si troverà in estrema difficoltà a importare beni di prima necessità, da prodotti alimentari a prodotti farmaceutici, dai quali lei è profondamente dipendente. Infatti nelle guideline che stanno dando adesso alle imprese e ai commercianti dicono riempite i magazzini, perché non sappiamo esattamente quello che succederà il 29 marzo. Ecco. Ora, si arriverà a quello? Questo è un interrogativo che non ha ancora assolutamente una risposta. Ecco, ogni tanto dal Regno Unito, e dico ogni tanto, mi riferisco proprio agli ultimi giorni, arrivano dei messaggi un po' inquietanti, appunto, questa idea di riempire i magazzini, di fare le scorte, sono tutte cose che tradizionalmente noi associamo alla guerra, insomma, in estrema sintesi. Ma come dicevo prima, tu sono parecchi anni che vivi in quel paese, che vive a Londra, per cui, ma c'è davvero quest'ansia oppure siamo, per farla semplice, noi giornalisti a drammatizzare le cose? No, l'ansia non si avverte ancora tra la popolazione, perché tutti sono convinti che in qualche modo una soluzione si trova, tutti se lo augurano e, come dire, la speranza sta diventando una convinzione, almeno per adesso, anche se col passare dei giorni la situazione si fa sempre più complicata. Quindi non c'è, però da parte del, come dire, delle istituzioni, delle autorità, ci sono stati chiaramente degli avvertimenti a prepararsi, perché quello che succederà il 30 marzo, il 29 marzo, il 30 marzo è assolutamente imprevedibile. Di questo sono molto cosciente le imprese che sono letteralmente terrorizzate dagli ultimi sviluppi, continuano a mandare messaggi ai governanti, ai politici perché trovino un accordo. La maggior parte delle imprese sono tradizionalmente per Remain, però ultimamente la Confindustria britannica è stata anche favorevole al compromesso della May, che minimizza quantomeno le conseguenze. Non è la loro soluzione, però di fronte al rischio di un salto nel vuoto dicono: beh, piuttosto portiamo a casa questo. In realtà questo, come dicevo, probabilmente non lo porteranno a casa. La Brexit da metà gennaio sarà al punto zero, e a questo punto si apre, secondo la maggior parte delle persone più addette alle dinamiche sociali, agli umori popolari, danno per 60% la possibilità che un secondo referendum si faccia, col 70% di probabilità che passi a favore di Remain, cancellando questi due anni di incubo. E quello sarebbe lo scenario più paradossale, con la Gran Bretagna che fu così critica nei confronti di Irlanda, Francia, Danimarca, quando dovettero ripetere il referendum, che si ritrova a referendum su tematiche europee non identiche a queste, ma analoghe, perché erano la ratifica dei, certo, trattati. Dei trattati. Si ritrova a fare una scelta del genere. Forse è un percorso inevitabile, perché questa è un po' la storia di un'Europa che è molto poco comprensibile alla gente, agli elettori, e quindi, come dire, ripetita iuvant, cioè le cose vanno ripetute, vanno fatte capire le conseguenze, va creato veramente un consenso che fino ad ora, soprattutto in un paese come la Gran Bretagna, che è stato, come dire, dirottato da un'informazione partigiana e anti-europeista in nome di una grandeur britannica che oramai non esiste più, a tutti i livelli, e non parlo solo dei giornali tradizionalmente anti-europeista, ci sono delle responsabilità anche dei giornali di informazione normale, che hanno sempre avuto un atteggiamento nei confronti dell'Europa molto, come dire, critico e, come dicono in inglese, dismissive, come dire, senza tenere troppo in considerazione. E questo ha avuto un impatto sull'opinione pubblica, nella convinzione che sarebbero stati comunque sempre capaci di fare tutto da soli, di trovare una propria soluzione. Adesso invece il tempo corre, quindi gennaio di fatto ci saranno 60 giorni di fuoco per arrivare al 29 di marzo. Naturalmente staremo a vedere, staremo qui a raccontarlo. Io ringrazio Leonardo Maisano da Londra, buon Natale anche a te e a tutti i londinesi, naturalmente anche con o senza Europa. E questo è uno dei grossi temi che ci portiamo in questo 2019, che è un 2019 in cui dovremo, c'è un elenco impressionante, basterebbe soltanto i primi 5 mesi in cui andiamo dalla soluzione o da una soluzione della Brexit, poi a maggio le elezioni europee. Insomma, è l'occasione anche per me per farvi degli auguri sentiti di buon Natale e buone feste da parte anche di Roberta Frisani, ne sono certo, annuisce in regia, da parte della redazione di Radio 24. Europa Europa ritorna la prossima settimana, avremo due puntate speciali, ma adesso subito gli aggiornamenti da GR24. Intanto buone feste e buon fine settimana a tutti voi.